faccio un esame di coscienza, mio bel datorino di lavoro. Guardi qui l'azienda, non c'è, è scarno il negozio, non c'è un'anima. Sai perché non c'è un'anima? Perché tu, lei vende i pombelmi dicendo che fanno dimagrire, poi si presenta lei davanti, la gente non ci crede, è incredula. Apri un bel negozio di maiali, vai, la boutique del maiale, il porcello, questo sconosciuto. Signore, fammi una cosa, Africa, invece di parlare io e te, non ne parliamo, innanzitutto perché sei un sottosviluppato, secondo perché quando parli non si capisce un accidente di niente. Senti, tanto per essere chiaro, prima di tutto sto milanese il 100%, l'accento che ho lo tengo perché fa rustico, lo faccio io apposta perché fa rusticismo. Vedo che sei milanese, ripeti con me, ciappa l'anguria e sbatti la contro il muro. C'è l'anguria la getti violentemente quando la parte si spetta sotto. Di questo c'è per sotto che è un biscotto. C'è per sotto che è un biscotto che viene meglio. E vuoi incapolare a me qui tranello l'ambiguità del diacolo? Fa piacere, dai. Fammi un piacere. No, poi fatelo dopo quando decido io. Adesso decido che vada. Iri nascerò, c'è avuto montagna. E scaricherò tutti i peperoni. Ottimo il test attitudinale di quest'oggi, uno strano ma vero che forse non tutti di voi, là fuori conoscevate. Parlavamo del contratto firmato il 10 dicembre del 1961 che legò il manager Brian Epstein ai Beatles. Quel contratto storicamente sappiamo che non era tecnicamente valido. Vi chiedevamo il perché, forse come ipotizzato dalla soluzione A, perché i quattro Beatles erano completamente sbronzi. Ai ai ai, è pur vero che gli anglosassoni sbevazzano a piacimento, però non è questa la ragione, non è questo il motivo. E allora forse non era valido perché, come ipotizzato dalla B, John Lennon firmò con il nome di Elvis Presley. Ai ai ai, non ci siamo, è pur vero che John Lennon era un burlone, infatti quando incontrava, umorismo macabro, sì, uno zoppo per strada, diceva spesso: certa gente farebbe di tutto per non andare sotto le armi, ma bonariamente, nel senso buono, tanto che spesso si divertivano entrambi. E allora la ipotesi esatta era la C, McCartney e George Harrison a quei tempi, nel 61, non erano ancora maggiorenni e quindi per rendere valido quel contratto avrebbero dovuto firmare i loro genitori. Ci sono vari aneddoti legati a quel storico 10 dicembre 61. Uno è che il contratto quinquennale fu firmato a casa del batterista Pete Best, che poi purtroppo, come tutti sappiamo, venne rimpiazzato dal ben più celebre Ringo Starr e si mangiò poi le dita per il resto della sua vita. Pare non legassero proprio dal punto di vista umano, dal punto di vista personale. Ricordiamo che Brian Epstein fu importantissimo per i Beatles, fu lui a consigliare ai quattro Beatles di non presentarsi in giacchetto rock and roll, in vestiti rock and roll, a non fumare sul palco, a non essere volgarotti. Li ripulì, quindi fu lui in parte a creare il vero successo dei Beatles. Li rese accettabili. Per continuare nei vari aneddoti legati a questo mitico Brian Epstein, segnaliamo anche che quando riuscì a convincere George Martin, allora un dirigente della Parlophone, a fare un provino con questi quattro Beatles, George Martin fece sapere che i ragazzi avrebbero dovuto incidere senza però Pete Best, per l'appunto questo batterista che poi non suona più con i Beatles. I Beatles non ebbero il coraggio di comunicare questa cosa a Pete e chiesero semplicemente a Brian: senti, lo scassi tu per favore, e lo scassò lui. Ebbero poi a dichiarare successivamente la seguente frase storica: fummo vili quando licenziammo Pete. Comunque, se vuoi, qua a Pane, Burro, Rock and Roll, un lavoretto lo troviamo sempre. C'è sempre un posto per te, uomo terribile che ha dovuto sopportare prove terrificanti. Ma ci pensa Ariel, quest'uomo cosa deve aver sofferto? Perché poco tempo dopo, pochissimi mesi dopo, i Beatles ebbero un successo mondiale con Love Me Do, con She Loves You, canzoni che balzarono Maestro, in cima. Maestro, non ci pensi, c'è da mangiarsi le mani. Parole sante. Ticket to ride. she don't care. Ci arrivo. Guarda che ci provo. My baby don't care. Ticket to Ride. Che tra l'altro devo confessarvi, mi si è impiantata in testa. Sapete che ogni tanto ci sono quelle canzoni che vi si piantano lì e non vanno via. Io sono in periodo Ticket to Ride. Buona giornata dall'Ariele. Fino alle 9 del mattino, la colazione denominata pane, burro e rock and roll. Siamo reduci da un test attitudinale dedicato a Brian Epstein e ai Beatles e ne approfitto legandomi a Ticket to Ride per segnalarvi, già da qualche mese è stato ripubblicato in DVD uno dei due lungometraggi dei Beatles, ovvero Help, un film gustosissimo. Io non lo avevo ancora visto, mi è stato regalato da Mr. Bulvino in persona, che ringrazio pubblicamente via radio, e me lo sono gustato, è un vero viaggione, quindi ve lo consiglio, andatevi a comprare Help dei Beatles in DVD. E a proposito del test attitudinale, invece non posso non segnalare questo SMS firmato Paolo, che è tutto contento, dice: finalmente 2 punti per la mia patente da vero rocker, vi ascolto dalla prima puntata, questa è la prima domanda che azzecco. Mi merito la patente davvero rocker solo per la mia vera ignoranza. Hai ragione Paolo, hai veramente ragione. Vedremo di inventarci qualcosa anche per chi non ha mai azzeccato una risposta del test attitudinale. Redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, rintracciatemi qualche amico o qualche amica che si è iscritta al provino per diventare musicista rock con la bocca, perché anche quest'oggi provineremo qualcuno di voi là fuori. Ieri abbiamo scoperto, siamo stati aggiornati sulle luminarie natalizie di Firenze. A Milano non vogliamo informarci? Se vogliamo lasciare il nostro tassista così in giro a far niente? No, dai, rintracciate pure lui, ragazzi. Su, lavorare! Upon the sea where the mist is blue. Don't Get Me Wrong, per l'appunto Pretenders, nella diretta di Pane, Burro, Rock and Roll. Allora, dovremmo connetterci con un amico che vi presento tra poco, però prima ho chiacchierato due secondi con Freak. Riguardo ad alcuni messaggi che sono arrivati dopo il test attitudinale, ve ne do un paio così veloci. Riguardanti Ringo Starr, cioè il test era dedicato appunto a questo. Nel test è stato segnalato che il primo batterista dei Beatles è stato scassato e rimpiazzato con Ringo Starr. E ci sono un paio di commenti tipo: Sandro, pensa che Sega doveva essere Pete per essere sostituito da Ringo Starr. O un altro che recita solo così: per poi sostituirlo, voglio dire, non certo con puntini puntini. Allora io e Frick abbiamo deciso di spezzare una lancia in favore a Ringo Starr, che viene riconosciuto come batterista pessimo, invece non è vero. Ringo era un gran portatore di tempo, intendo dire, e poi era anche il più simpatico ai tempi. E aveva anche successo con le ragazze. Quindi insomma, noi di Pane, Burro, Rock and Roll ci schieriamo a favore di Ringo Starr, mentre la redazione mi fa gestacci perché abbiamo qualche problema a connetterci con il nostro tassistatino, che ci fa sapere come vanno le luminarie natalizie a Milano. Il problema è molto semplice: Tino ci ascolta mentre sta lavorando e solitamente lo mandiamo in diretta proprio mentre sta per prendere i clienti, quindi però è talmente attaccato al suo lavoro di redazionista di Pane, Burro e Rock and Roll che rischia il licenziamento piuttosto che non partecipare. Tino, ci sei? Sì, eccomi, sono qua. È salito il cliente? Sì, è salita una simpaticissima signorina. Dagli la buona giornata da parte nostra, chiedi scusa, penso. Allora, buongiorno da Pane, Burro e Rock and Roll di Rock FM e tante scuse per la signorina. Fortuna che io il giorno che ti sale su una vecchia bacucca ricca, secondo me ti pianta un casino. Sì, veramente. E non vedo l'ora, tra l'altro, spero accadrà in diretta. Le chiappe per voi, sappiate. Va bene. Tino, allora ieri la nostra pulmista fiorentina ci ha aggiornato, sembra che Firenze si sia portata avanti con le luminarie natalizie. Qui a Milano come stiamo? So che tu ci tieni tanto perché a te il Natale, ricordo, piace parecchio. Ma tantissimo, non posso farne a meno, no? Sì. Quindi... è noto. Vai, luminarie. Allora, le luminarie ce ne sono parecchie in scaletta. Allora, sono state messe in Viale Premuda, ci sono dei tipo dei fiocchi, delle galle, cose del genere. Dei fiocchi di fiocchi di luce. Sì, ci sono delle lucine che hanno una forma di stocchettone, una cosa del genere. Sì, ok. Poi ci sono stelline di vario genere natura in corso di Porta Romana, in via Lorenteggio e in via Farini. E anche in via Torino. Devo dire, hanno una specie di cosa tridimensionale, cioè danno un effetto un po' tradizionale. Senti, Tino, però, perché di solito sei sempre cattivo, oggi ti sento un po' più... Non è che è scattata la gara con Firenze per puro patriottismo, adesso segnali tutte quelle milanesi? Ah, se vuoi, sì, figurati se ne faccio sfuggire l'occasione. Vai, ne hai altre? Sì, allora, quello che mi ha colpito di più sono in via Turati. Ovvero? Perché, dunque, non sono ancora state accese, però così a vedere soltanto la sagoma, praticamente sembra un diavoletto che infilza un pipistrello. Un diavolo che infilza un pipistrello? Ma queste sono luminarie rock, Tino, perdonami. Vuoi dire che questo sarà un Natale rock? Se può essere. Magari lo fosse, magari. Può essere. Noi ci proviamo. Intanto in diretta mi arriva un SMS firmato Brian, perché c'è un altro problema da affrontare, e ne parlavo anche ieri con l'amica di Firenze. I Babbi Natale, è strano che non siano ancora fuori. C'è puzza di complotto, Tino, tu non la senti? Sì, anch'io non ne vedo, sono preoccupatissimo. Allora Brian scrive: non solo luminari a Firenze, ho trovato il primo Babbo Natale semovente ad altezza uomo in centro. No, vabbè, ma allora non c'è più storia, ci hanno fregato. E aspetta, commenta, perdonami, manca sempre una tanica di benzina quando serve. Gliela porto io, sì. Ma arrivo, le ho in bocca. Senti, siamo in ritardissimo, ma ieri mi commentavi una cosa che ti chiederei di ridire. Cioè, tu rispondi ai tuoi clienti parafrasando Pane, Burro e Rock and Roll. Ormai è l'abitudine, cosa vuoi? Il mio cervello è tarato così. E l'altro giorno ero naturalmente nel traffico, eccetera, stavo muovendomi, stavo facendo una manovra regolarissima, niente di strano. Arriva il solito bravo fenomeno che ecco qui là su giù, ho tirato giù il finestrino, l'ho guardato e ho detto: "Embè, embè, che c'è?" Ciao Tino, buon ciao proseguimento, salutaci la signorina, a presto. Bene, bene, a presto, un abbraccio, ciao. Che orgoglio, ragazzi, dei tassisti che rischiano così i posti di lavoro all'alba del 2007, tra l'altro, parliamone. House of the Rising Sun, Animals. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Il nostro spot recitava: a volte ci vogliono anni per diventare veri musicisti, a volte decenni, a volte non ci vuole nulla. A volte non c'è niente da fare, come nel caso di Fricantoni. No, ma se solo si potesse diventare dei musicisti rock con la bocca, potrebbe farlo anche lei, ma lei non può. No, lei no, adesso non può, dica così. Perché la possibilità la regaliamo ai nostri radioascoltatori che in centinaia, migliaia hanno risposto all'appello: voglio diventare un musicista rock con la bocca. Questo non è giusto, perché anch'io voglio diventare un vivo rock con la bocca. Prima o poi ce la farà, maestro, ma intanto, se se la sente, proviniamo un nuovo amico. La redazione mi segnala Mike, dovrebbe chiamarci da Milano e dovrebbe essere in linea con noi. Mike! Eccomi! Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll! Ciao! Un ciao anche da Fricantoni, posseduto da Mike, buongiorno! Buongiorno sia a Frick che a Mike! Buongiorno, quando sento nominare Mike, ecco, divento buongiorno! Allora, Mike, iniziamo questo provino con quattro chiacchiere, perché sappiamo che siete un po' tesi, sentite un po' l'evento del provino. Possiamo, assolutamente. Possiamo chiederti quanti anni hai? 28. Sicuro? Assolutamente sì. Che lavoro stai facendo? Sono impiegato nel marketing alla Pirelli. Ah, quindi nel caso la carriera da musicista rock con la bocca non dovesse andare, beh, sei decisamente parato. Sì. In questo momento... Direi furbo. Il contrario. Il contrario, speri di più nella carriera da musicista rock con la bocca. In questo momento dove ti trovi di bello? Sulla tromba delle scale. Ah, tranquille, per ottenere eco. Un effetto eco, giusto, giusto, per ottenere un effetto di lei molto raffinato. Secondo me è perché ha paura di farsi beccare. Esattamente. Esatto. Sa, Frick, qual è la motivazione facile. Giusta per non sembrare pazzo a tutta l'azienda? Non so quanto l'azienda sarebbe felice di sapere che un suo impiegato preferisce diventare un musicista. Ma noi glielo faremo sapere. Mike, possiamo chiederti, nella vita suoni qualche strumento? Assolutamente no. Non hai mai suonato nulla, neanche un kazoo? Guardi, kazoo forse sì, da piccolo suonavo il pianoforte, ma abbandonato dopo pochissimo. Un piccolo giusto. Pianista classico in erba, strappato alla sua carriera, e noi di Rock FM gli diamo una nuova possibilità. Dunque un musicista con la bocca puro, benissimo, ottimo inizio. Mike, che strumento avresti scelto di suonare con la tua bocca? Chitarra. Come ottima scelta. come mai così? Per fare il chitarrista. Ma sì, perché forse è anche la più facile, dai. Okay. Ti sei allenato in questi giorni? Tutta la notte. Possiamo chiederti che brano vuoi eseguire così in diretta? Guarda, il titolo del pezzo onestamente non me lo ricordo, però è una canzone di Black Sabbath. Una canzone dei Black Sabbath. Vabbè. Perfetto, quindi una chitarra oscura. Insomma, Mike, se te la senti, noi siamo pronti. Siamo tutto orecchi. Datemi voi via. Allora, guarda, in diretta sulle frequenze di Rock FM, Mike, che vuole diventare un chitarrista rock con la bocca, ci suona un pezzo dei Black Sabbath. Vai, Mike! Poi mi fermo qua perché... No, Mike, no, c'era il pezzo. Stavi andando benissimo. Vede che anche lei, Ariel, l'ho pescata, anche lei si lascia andare. Vorrei farlo anch'io, invece Mike si è fermato all'introduzione. Caro Mike, grazie mille, credi che nell'azienda ti abbia sentito qualcuno? Per il momento no, ma gli farò sentire la puntata poi. Guarda, manderemo noi un CD al direttore dell'azienda specificando: Mike, il chitarrista con la bocca, suona sulle trombe, nelle trombe delle scale anziché lavorare. Mike, scherziamo, le faremo sapere, come stiamo dicendo a tutti e come a tutti chiediamo. Dovessimo formare una band di musicisti rock con la bocca, tu ci sarai? In prima linea. Mike, speriamo di sentirci presto. Ciao! Ciao, sei comunque dei nostri. Un abbraccione. Grazie, ciao. Ciao, Mike. Pane, burro, rock and roll. Pane, burro, rock and roll. Mazza che figata sto programma, raga! questa era la versione originale di Iron Man interpretata dai Black Sabbath, niente a che vedere con la incredibile interpretazione di Mike, il nostro ennesimo chitarrista rock con la bocca. Pochi minuti alla chiusura di Pane, Burro e Rock and Roll e io caldeggio ancora. Voi timidi radioascoltatori passivi, non abbiate paura, partecipate al provino per diventare musicista rock con la bocca, diventerete dei rocker seri e preparati anche voi. Basta inviare un SMS al 335 100 7777 con la scritta musica rock con la bocca, sì. Lo fate per scaricare le suonerie dei cellulari, non dovete farlo per Pane, Burro e Rock and Roll, dico, no? Questa è la fine, ragazzi. Devo assolutamente salutare con un abbraccio forte Giulio, un rocker, ce lo segnala il suo amico Fulvio da Firenze. Giulio sta lottando e noi, insomma, speriamo di riuscire ad accompagnarlo in questa lotta. Ricordati, caro Giulio, che la nicchia vincerà sempre e quindi siamo assolutamente in squadra con te. Altra segnalazione, invece, salto di para in frasca per quanto riguarda le luminarie natalizie, ma mi divertiva abbastanza. Un'altra segnalazione di Firenze, allora via Gioberti, verranno accese solo tra un paio di settimane. Per il momento abbiamo il cielo coperto da una specie di filo spinato. Sembra di stare ad Auschwitz. Tony, aspetta che le illuminano. Però l'immagine c'era, l'abbiamo capita. Grazie. Pane, Burro e Rock and Roll termina. Pane, Burro e Rock and Roll. Si risente domani dalle 7 alle 9. La tua colazione roll. Puntuali come la morte. Pane, Burro e Rock and Roll. Mister Trombetta, Lariele, Spadino, Fricantoni e la redazione restano qua a lavorare come degli scemi. A roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Bravi, iscrivetevi. L'averci incontrato. Io ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E ogni giorno alla mattina a quest'ora è un piacere dare il benvenuto al buon Marco Garavelli. Grazie Ariel. Oggi freddolosi siamo. Eh sì, temperatura fuori, mi sa che fa più freddo fuori che qui nei nostri studi. Ma scusa, ma mi veniva da pensare, quelli del palazzo non possono stare così al freddo. Probabilmente hanno meno appartamenti, quindi un po' più compatti. Beh, su questo però, visto chi abita qui meno appartamenti... Bisognerebbe controllare. Sì, dici. Che fai lo spiritoso, Garavelli? Stai attento, eh? Ok, va bene. Al massimo ci compriamo le stufette, quelle piccoline, quelle del Media World, no? O rischia che salta elettriche tutto elettriche oppure queste cose col compensato, queste stufettine, no, strane. No, figo col compensato. Sai, quei trucciolati. Ah, quello mi farebbe impazzire. Passerei tutta la diretta a buttare dentro i legnetti. Capo carbone. Va bene. Ci si risente domani. Ciao, Garavelli. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Sono le 9.